24, i gialli della storia. Bisogna avere un carattere molto forte per lasciare a 24 anni la Polonia dal ghetto ebreo di Kazimierz per l'Australia, da sola. Arriva in Australia con una decina di confezioni di crema della madre nella valigia. E lì prova a rifare la ricetta del chimico ungherese Lukuszki. Ha inserito la lanolina, che dà una grande attività protettiva. È il 1896 quando una giovane emigrata polacca salpa da Genova alla volta dell'Australia. Il suo nome è Elena Julie Rubinstein. E già da quella sua prima esperienza si intuisce quella che sarà la caratteristica della sua vita. Nel 1902 apre il suo primo salone di bellezza a Melbourne e in soli 3 anni mette insieme un patrimonio di oltre $100,000. Oggi a Mix 24 raccontiamo la sua storia, l'avventura di Madame, come la chiamano tutti, una rivoluzionaria dell'estetica che costruirà un impero multimiliardario. Dopo l'esperienza in Australia, Elena torna in Europa, prima a Londra, poi a Parigi, dove continua la sua attività imprenditoriale imponendo il suo marchio. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale si sposta negli Stati Uniti, dove in poco tempo riesce a imporsi nel settore dei cosmetici. Il suo giro d'affari è di oltre 2 miliardi di dollari con 7.000 differenti prodotti venduti, un vero impero. Ma nel 1928 Elena deve prendere una decisione cruciale che cambierà la sua vita. Dopo 8 anni di euforia delle borse, alla vigilia del crack, la società di servizi finanziari, la Lehman Brothers, studia il bilancio Rubinstein e offre a Madame 7,5 milioni di dollari per acquistare l'80% della sua compagnia americana. L'11 dicembre del 28, Elena, concludendo la vendita, diventa la donna più ricca d'America. Ascoltiamo la biografa Lindy Woodland. Sfortunatamente sta arrivando la Grande Depressione, che non ha portato bene alla Lehman Brothers, perché loro hanno sbagliato tutto, non hanno capito e non si sono focalizzati sul fatto che un business destinato alle donne, diretto dalle donne, deve essere guidato dalle donne che sanno cosa si vende anche quando i tempi sono duri. La Lehman svende i prodotti di Madame sul mercato di massa, quota le azioni Rubinstein in borsa e in meno di un anno passano da 70 a 20 dollari. Mentre il panico scuote Wall Street e il mondo intero, Elena viaggia, lontano dai suoi affari tra Europa e Australia, studiando con i chimici più importanti dell'epoca, come racconta la professoressa Anna Maria Dursi. All'epoca venivano utilizzati come prodotti cosmetici anche dei prodotti che erano tossici, mentre invece lei si era cominciata, cioè si rivolgeva largamente ai prodotti di origine naturale. Il 24 ottobre del 29, quando la più terribile crisi della storia economica degli Stati Uniti, il giovedì nero, mette fine agli anni ruggenti. Elena attende dolorosamente di vedere il tramonto del suo impero. È in una delle sue tanti notti insonni, però, che ha l'idea che cambierà il corso degli eventi. Le sue azioni devono continuare a deprezzarsi quando ormai valgono carta straccia. Alla fine di ottobre Elena ricompra l'azienda a solo $1,5 milioni, ritornando vincitrice a New York e alla guida del suo colosso. Ma da dove arriva questa donna che alla fine degli anni 20 realizza un surplus di $6 milioni? La sua è una storia leggendaria che inizia a Cracovia alla fine dell'Ottocento. Ne parla la sua biografa Michel Fitoussi. I suoi genitori sono ebrei praticanti. A Kamizie, un ghetto medievale di Cracovia, suo padre è povero, ha un piccolo bazar. Sua madre si occupa delle figlie, sono 8. Elena è la più grande e dà una mano in casa. È una famiglia modesta. A contare è la vita religiosa e soprattutto bisogna che le figlie si sposino. Ma lei non vuole saperne di sposarsi. Impara i rudimenti di chimica dalla madre a 24 anni. Fugge prima a Vienna, poi in Australia.